سلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي صاحب العرق الغربي فلسطين اتبنتك وصلت سفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد تزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارض تناديكم مشيت على الايادي بالايادي مساعد ما حم الموت قلبه ضابط بالصوت ورافض السكوت وصاحب عين الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خاطر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي في توريو إحنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد إنت فلسطيني فيك إنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على E 19:34 minuti primi, in ascolto dai microfoni di Radio Default, andiamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata. E, ricordiamo velocemente i contatti della radio, www.radiodefault.it, dove potete trovare il nostro palinsesto e le nostre iniziative, e poi la nostra pagina Facebook Radio Default, in cui potrete avere i... gli aggiornamenti in tempo reale su ciò che sta trasmettendo materialmente questa radio. E quindi iniziamo subito con il nostro giornale radio e ovviamente portando la nostra solidarietà alla popolazione di Palestina che ha avuto una settimana abbastanza difficile. Dai, Fabio. E escalation di violenza sionista, l'Egitto media una tregua. Tre sono stati morti in West Bank. Il primo, da lunedì la Palestina ha visto un'impennata negli omicidi mirati condotti dalle forze d'occupazione. Tre sono stati morti in West Bank. Il primo, Raed Zeiter, di 38 anni, era un giordano palestinese, giudice nel tribunale di Amman, freddato dall'esercito sul ponte di Allenby. il valico che collega la Palestina occupata al regno hascemita. A questo omicidio sono seguiti quello di Saji Darwish, 18 anni, ucciso mentre lanciava dei sassi alle automobili che si dirigevano all'avamposto illegale di Givat Asaf, e quello a Tulkarem di Mojedin Majadla, 23 anni, alla guida della sua auto. Critica anche la situazione a Gaza, dove tre membri della resistenza di 23, 24 e 33 anni sono stati uccisi mentre respingevano un tentativo di invasione sionista nella città di Rafah. In seguito all'omicidio dei propri commilitoni, le Brigate Al-Quds, braccio armato del Movimento per il Jihad Islamico, hanno lanciato l'operazione Rompere il Silenzio, con il lancio di una novantina di razzi verso le città meridionali dell'entità sionista. Le forze d'occupazione, dal canto loro, hanno reagito bombardando 29 siti della resistenza. Oggi alle 14 il Movimento ha dichiarato di voler interrompere le operazioni militari, annunciando che l'Egitto ha dichiarato una tregua, circostanza negata dalle autorità dell'occupazione. E muore Abu Arab, poeta della resistenza. Domenica 2 marzo Ibrahim Mohammed Saleh è morto all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Il poeta, meglio conosciuto come Abu Arab, era nato vicino al lago di Tiberiade nel 1931. Suo padre morì nel 48 mentre combatteva le forze sioniste, mentre suo figlio venne ucciso durante l'invasione del Libano nell'82. Conosciuto anche come il poeta della rivoluzione palestinese, visse in numerosi campi profughi in vari stati arabi fino a che non si stabilì in Siria. E passiamo ad Al-Quds, Gerusalemme, dove sono stati arrestati i fratelli di Samir Issawi. Sabato 8 marzo le forze di occupazione hanno condotto una serie di raid che hanno portato all'arresto di 4 persone. Tra gli arrestati anche Shadi Issawi, prelevato sul suo posto di lavoro, e Shirin Issawi, fratello e sorella di Samir, il prigioniero politico che ha intrapreso lo sciopero della fame più lungo della storia. I due sono stati prelevati con un mandato di arresto di 24 ore, poi prolungato fino a oggi 13 marzo. Shadi è anche lui un ex prigioniero politico, mentre Shirin è un'avvocatessa contro cui l'ordine degli avvocati sionisti ha già diramato 2 ordini di sospensione dalla pratica legale. E passiamo alla West Bank, dove il 2013 ha visto un boom di costruzione di colonie. L'Israel Central Bureau of Statistics ha diramato un rapporto in cui dichiara che il 2013 ha visto un raddoppio della costruzione delle colonie, 2.534 nuove unità abitative rispetto alle 1.133 dell'anno precedente. Il rapporto è stato pubblicato poco prima che Netanyahu incontrasse il presidente statunitense Obama a Washington. La questione della colonizzazione è uno degli argomenti di rimente e di maggiore scontro tra Washington e Tel Aviv per i cosiddetti colloqui di pace. E passiamo a Birzeit, dove è stato arrestato un resistente del Fronte Popolare. Lo scorso 5 marzo le forze d'occupazione hanno arrestato Fadi Walid Ibrahim, un 28enne di Birzeit, accusandolo di aver accoltellato un uomo a Petah Tikva, nella cosiddetta Israele. Il giovane ha dichiarato ai propri accusatori di essere un militante del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e di aver compiuto l'operazione di resistenza in risposta all'omicidio di Muataz Washaha, ucciso la settimana precedente dalle forze di occupazione. E passiamo alla striscia di Gaza, dove un drone sionista precipita su Khan Yunis. Le brigate Zedin al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno dichiarato di aver rinvenuto i resti di un drone nel sud della striscia di Gaza, a 500 metri dal confine con i territori occupati nel 1948. Un portavoce dell'occupazione ha confermato la notizia dello schianto, motivandolo con un problema tecnico. Le forze dell'occupazione usano quotidianamente i veicoli senza pilota per sorvegliare le attività nell'enclave costiera e per guidare gli attacchi missilistici. E passiamo al fronte delle carceri, dove è stato ricoverato un detenuto in gravi condizioni di salute. L'autorità carceraria sionista ha dichiarato di aver ricoverato il detenuto Majed Tahat Karake, 40 anni, a causa di un'infezione all'orecchio. Karake è stato più volte arrestato nel 91 e nel 92. Dal 93 al 98 subì 5 anni di incarcerazione senza processo d'accuse. Dopo essere stato liberato, venne riarrestato nel 2002 e condannato a 17 anni. Da 9 anni attendeva un'operazione all'orecchio, mentre da 7 doveva subire un intervento a naso, tutte cure che le autorità carcerarie avevano rinviato fino ad oggi. E resistente palestinese condannato a 25 anni di reclusione. La corte di Tel Aviv ha condannato il 19enne Mohammed Mafarja a 25 anni di reclusione per tentato omicidio e per aver aiutato il nemico in tempo di guerra. Il 21 novembre 2012, mentre era in corso l'aggressione colonna di nuvole, contro gli abitanti di Gaza, Mafarja, insieme al suo amico, a un suo amico, hanno piazzato una carica esplosiva su un autobus di Tel Aviv, ferendo lievemente 8 persone. I due avevano deciso di condurre l'operazione di resistenza per far cessare i bombardamenti contro Gaza, iniziati il 14 novembre 2012 con l'omicidio del comandante militare Ahmed Jabari e proseguiti per 8 giorni e che hanno portato alla morte di 170 palestinesi. E Lieberman vieta le ispezioni nelle carceri. Il ministro degli esteri sionista, Avigdor Lieberman, ha negato a una delegazione ufficiale dell'Unione Europea di visitare i prigionieri politici palestinesi. A detta del ministro, il permesso sarebbe stato rilasciato soltanto dopo che l'UE avrebbe permesso a una delegazione sionista di visitare le loro carceri in Europa. Secondo il Ministero dei Detenuti palestinesi, attualmente l'entità sionista trattiene 4.800 palestinesi, vittime quotidiane di violenze e di negligenza medica. E passiamo agli aggiornamenti dall'entità sionista, dove un gruppo di adolescenti dice no alla leva obbligatoria. Un gruppo di adolescenti che vivono nell'entità sionista hanno scritto una lettera al primo ministro Netanyahu in cui affermano di non voler svolgere il servizio di leva a causa del ruolo di prim'ordine svolto dall'esercito nell'occupazione della terra palestinese. L'occupazione sionista prevede che tutti i cittadini occupanti svolgano un servizio di leva di 3 anni per gli uomini e di 2 per le donne. Storicamente poche sono state le eccezioni, tra queste i palestinesi musulmani, anche se l'obiezione di coscienza è prevista per quelli cristiani, e gli ebrei ultraortodossi, che da oggi invece cominceranno a servire nell'esercito come tutti i cittadini di religione ebraica. E passiamo all'Egitto, dove si stringe la repressione contro Hamas. Lo Stato egiziano continua la sua campagna repressiva contro i palestinesi. Questa volta è il turno di Hamas, bandita dai tribunali del Cairo per essere legata ai fratelli musulmani ed accusata di aver condotto attacchi terroristici contro le forze di sicurezza e le carceri egiziane. I servizi di sicurezza stanno anche indagando sulle migliaia di palestinesi a cui era stata concessa la cittadinanza egiziana e si sta pensando di revocarla a più di 13.000 persone accusate di essere legate al movimento di resistenza islamico. E passiamo al Sudan, dove è stato sequestrato un carico di armi nel Mar Rosso. Le forze di sicurezza sioniste hanno annunciato di aver sequestrato un cargo contenente 50 tonnellate di razzi M302 al largo delle coste sudanesi nel Mar Rosso. Secondo l'entità sionista, le armi provenienti da Damasco sono state imbarcate in Iran, occultate tra i container di cemento per poi essere consegnate all'ala militare di Hamas. Netta la risposta di Teheran, che nega ogni addebito, e ha evidenziato come il sequestro fosse avvenuto appena prima dell'inizio della conferenza annuale dell'AIPAC, la principale lobby sionista statunitense. E passiamo all'Italia, dove Vendola acquista del materiale sionista per l'acquedotto pugliese. Il collettivo Rivoltiamo la precarietà di Bari ha dichiarato in una nota la propria contrarietà ai nuovi investimenti dell'acquedotto pugliese. In particolare, l'attenzione si concentra su una nuova valvola prodotta nell'entità sionista. L'acquisto della valvola, chiamata Valeria, oltre a portare benefici economici all'occupazione, andrebbe anche a legittimare le politiche di apartheid idrica che Tel Aviv conduce contro i palestinesi. Anni addietro, Nicola Vendola ha dichiarato che il ruolo di amministratore dell'acquedotto, partecipato al 100% dalla Regione Puglia, non è un ruolo tecnico, bensì una carica politica. Di conseguenza, la Regione ha scelto chiaramente il proprio allineamento politico con gli oppressori sionisti. E passiamo alle iniziative. A 14 marzo a Roma continuano le proiezioni del ciclo Palestina per principianti. Venerdì 14 marzo ci sarà il nuovo appuntamento del ciclo di incontri e proiezioni in collaborazione con la Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese. Alle ore 20 ci sarà un aperitivo ad offerta libera. Alle 20.30 proiezione del videoreportage Della città di Dio, lamenta più voci per la sorte di Handala, di Giovanna Conforto, Giovanni Greco e Maria Zerbino, mentre alle 21 verrà proiettato il documentario di Abid Kassim, Najee Alali, un artista visionario. L'evento si svolgerà all'Associazione Culturale De Tour in via Urbana 107 a Roma. E 15 marzo, manifestazione a Roma in solidarietà con il popolo siriano. E sabato 15 marzo si terrà appunto a Roma una manifestazione nazionale in solidarietà con la rivoluzione egiziana, di cui vi mandiamo lo spottino. . 15 marzo 2011, i siriani scendono in piazza chiedendo libertà e dignità. Il dittatore Bashar al-Assad dà inizio alla guerra contro il popolo, la più catastrofica dei tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il silenzio è complice, è ora di dire basta. il 15 marzo, nel terzo anniversario della rivoluzione, manifestazione nazionale in sostegno al diritto alla vita e all'autodeterminazione del popolo siriano. L'appuntamento è a Roma, in Piazza della Repubblica, dalle ore 15. Men Roma, una Suria. E noi ovviamente invitiamo tutte e tutti a partecipare, troverete anche la nostra redazione. E invece il 16 marzo, appunto settimana piena di densa di appuntamenti, seminiamo resistenza, coltiviamo libertà. Il 16 marzo 2003 Rachel Corrie, attivista dell'ISM, veniva uccisa a Rafah da un bulldozer dell'esercito sionista, mentre insieme ad altri compagni cercava di impedire la demolizione di una casa palestinese. Quest'anno vogliamo ricordarla con un doppio appuntamento, restaurando il murales fatto con i ragazzi e le ragazze di Gaza l'anno scorso a Metro San Paolo e sistemando insieme ai giardini sovversivi l'aiuola di Largo delle Sette Chiese, dove ormai da anni c'è la targa in suo nome. Nella settimana contro l'apartheid israeliana sarà una piccola occasione per portare la Palestina fuori dall'uscio di casa e alla vigilia della settimana per il boicottaggio degli accordi di Hashem Ekorot per innaffiare le nostre piante con dell'acqua libera e solidale. Il nome di Rachel, il nome nel nome di Rachel, di Rachel e con Dax nel cuore. L'appuntamento è per le 16 alla Metro San Paolo e alle 17 al Largo delle Sette Chiese nel quartiere Garbatella, Roma. E chiudiamo con l'ultimo di questa 4 giorni fitta di appuntamenti, lunedì 17 marzo i prigionieri palestinesi, la resistenza nelle carceri israeliane. E lunedì 17 marzo alle ore 18 la rete romana di solidarietà con il popolo palestinese organizzerà un incontro con Randa Wahbi di Addamir, un'organizzazione a sostegno dei prigionieri palestinesi, in cui si presenterà la campagna internazionale Libertà per Marwan Barghouti e i prigionieri palestinesi, oltre al dossier sui prigionieri e sulle campagne BDS in Italia stilati dalla rete romana. L'iniziativa si svolgerà al centro sociale Scoop a Via Nola 5 a Roma. E con questa 4 giorni fitta di iniziative che ci sarà nella capitale, noi vi lasciamo, ve le ricordiamo velocemente, domani sera, venerdì 14, presso il cinema, l'Associazione Culturale de Tour, a Via Urbana 107 a Roma, proiezione di un documentario su Najee Alali, il famoso mignettista palestinese. 15 marzo alle ore 15, manifestazione in solidarietà con il popolo siriano, nel terzo anniversario della loro rivoluzione. 16 marzo ricordo di Rachel Corrie e di Davide Cesari a Metro San Paolo e a Largo delle Sette Chiese a Garbatella, mentre lunedì 17 marzo alle ore 18 presso a Scoop un incontro con le associazioni in sostegno dei detenuti palestinesi. E sono le 19:55 minuti primi, si conclude così questa trasmissione, questa nuova puntata. Vi ricordiamo velocemente i contatti della radio, www.radiodefault.it, in cui potete ascoltare le nostre, in cui potete trovare il nostro palinsesto e scoprire le nostre iniziative. La nostra pagina Facebook Radio Default, dove potete essere in contatto e vedere con noi e vedere direttamente in tempo reale cosa sta succedendo o cosa sta trasmettendo la nostra radio. E infine potete venirci a sentire live in quel di via Franco Guidobaldi 56, dove sono situati gli studios della nostra radio. Potete conoscere la redazione, partecipare alle trasmissioni e soprattutto venire a dare un sostegno a questa radio che campa esclusivamente dei soldi di chi l'ascolta. Quindi noi chiudiamo qui, vi auguriamo buona libertà a tutti e a tutti, nei castelli romani, in Italia, in Palestina e in ogni dove. بتعصب الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي